Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ritengo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un disegno di legge governativo per la pensione alle casalinghe un innegabile successo. Troviamo in esso sancito un principio, e cioè che la casalinga è una lavoratrice e come tale ha titolo al godimento di un trattamento previdenziale e assistenziale. Ma chi sono queste casalinghe a favore delle quali si è battuto tutto lo schieramento politico italiano, dall'estrema destra all'estrema sinistra? Siete voi, signora. E voi che correte da una camera all'altra del vostro appartamentino sempre in moto, sempre in faccende, sacrificando le faccende domestiche perfino l'indispensabile partita a canasta. Voi che rigovernate ogni giorno e che nel giro di 3 anni lavate una pila di piatti alta quanto la Torre Eiffel. Era l'anno 1961. Le casalinghe italiane avevano finalmente l'orgoglio di avere una pensione, cioè ha riconosciuto in parte il loro lavoro, che fino a quel momento era considerato una sorta di biblica necessità di adempiere al loro ruolo femminile, di partorire con dolore e occuparsi sempre con dolore del marito, dei figli e della casa. Le cose sono leggermente mutate oggi. Il termine casalinga ha avuto una sua deriva molto singolare. Se cercate casalinga in un motore di ricerca, ci sono soltanto immagini procaci. L'idea della casalinga è legata chissà perché a un fantasma erotico, qualcosa di totalmente reale. Probabilmente è la reazione alla patinatura, allo standardizzazione della figura femminile. Ma è stata fatta qualche giorno fa una ricerca interessante da un sito americano, Salary, che si occupa appunto di retribuzioni. Hanno usato un algoritmo, cioè un sistema di studio particolare numerico, e hanno analizzato le singole funzioni che ogni giorno svolge una casalinga. Hanno visto che una casalinga comunque non ve la immaginate soltanto con la ramazza in mano e il fazzoletto tra i capelli perché deve fare la frittura e poi non vuole insaporirsi la capigliatura, no. La casalinga durante il giorno svolge parcellizzate una serie molto dettagliata di professioni, e ognuna di queste professioni, se applicata a un tariffario corrente e reale, ad esempio, non so, porta i figli a scuola, quanto vuole un autista ora? Ecco, viene segnato. Oppure ripara il lavandino otturato, quanto vuole un idraulico per ogni riparazione? È applicato questa cifra. Andando avanti, sommando tutte queste funzioni, una casalinga avrebbe diritto a uno stipendio di 7.000 euro al mese, che non è assolutamente, anzi, uno ci farebbe la firma subito per 7.000 euro al mese, uno si metterebbe a fare il casalingo probabilmente, che fa una cifrettina interessante. 83.000 euro all'anno, che non è proprio assolutamente da buttare via, anzi è uno stipendio medio-alto considerato. Beh, e questo oggi lo cercheremo di rappresentare, abbiamo dato l'idea di quelli che sono i lavori quotidiani che svolge una casalinga. Mi rivolgo soprattutto alle casalinghe, ammesso ce ne siano in ascolto in questo momento, visto che la categoria è così difficilmente rappresentata come orgoglio, come coming out. Avete qualche altra funzione, qualche altra professione da aggiungere a quelle del sito online americano, che mi sembra già abbastanza esaustivo? 800240024, su, guadagnatevi questi 7.000 eurini al mese. Il reddito virtuale delle casalinghe. È possibile calcolare il reddito virtuale delle casalinghe? Sì, secondo gli esperti del sito americano Salary.com, che per fare il calcolo hanno intervistato oltre 6.000 donne, indagando sul tempo che dedicano a 10 fondamentali lavori domestici che le casalinghe svolgono ogni settimana: cuoco, autista, insegnante, psicologa, contabile, manager, addetta alle pulizie, operaia, lavandaia, babysitter. 10 professioni svolte da un'unica persona, ma nessun lavoro, vista l'assenza di retribuzione. Secondo gli americani, la retribuzione teorica e i prezzi di mercato di queste 10 attività ammonterebbe a quasi 7.000 euro al mese, circa 83.000 euro l'anno. Questa è la notizia. Anche psicologa ci hanno messo, perché in fondo quando si occupa con pazienza di ascoltare quelle che sono le frustrazioni, i problemi, voi dei figli, voi del legittimo marito, ha una funzione di psicologa, anche se non ha il corso di studi necessario a farlo, ma molte volte è una pratica molto interessante. Non è detto che molte casalinghe siano anche psicologhe, o molte psicologhe siano pure casalinghe. Beh, avete qualcosa da aggiungere a questa lista? Vi facciamo sentire qualche altra voce del reddito virtuale delle casalinghe e vediamo se siete d'accordo o se c'è qualcosa che hanno dimenticato gli americani. Secondo la ricerca fatta, in un mese una casalinga avrebbe cucinato per 14 ore settimanali a 10 euro l'ora. Si sarebbe trasformata in autista per figli grandi e piccoli per 8 ore alla settimana a 10 euro l'ora. Avrebbe impartito ripetizioni per 13 ore la settimana alla stessa cifra. Non solo. Per tamponare le varie crisi familiari, si sarebbe trasformata in psicologa almeno 7 ore alla settimana a 28 euro l'ora e in manager a 40 euro l'ora. Dunque, lo stipendio di una mamma multitasking niente affatto trascurabile sarebbe pari a quella di un quadro di un'azienda o di un manager di buon livello. 7.000 euro al mese non sono certo pochi, se qualcuno, ovviamente, decidesse di pagarglieli. Diamo per scontato che nessuno darà mai 7.000 euro al mese per le casalinghe, anche perché dove mai li potrebbero andare a prendere? Diamo per scontato che naturalmente è una boutade, è una valutazione del tutto iperbolica, ipotetica, ma serve per far capire le complessità che si nascondono dietro alcune professioni che apparentemente sono lineari o sono considerate di rango inferiore. Poche donne direbbero oggi liberamente faccio la casalinga, magari si inventano che gestiscono un blog di fashion, di moda o di consigli per gli acquisti o qualcosa del genere. Però esistono anche altre professioni che probabilmente nascondono la stessa chiave occulta di difficoltà di essere classificate per quello che realmente sono nella loro complessità. Si sente dire molto spesso, ecco, voi vi sentite perfettamente rappresentati e retribuiti in quello che voi fate, ma non intendo se il vostro stipendio sia quello giusto, se vi riconoscono in realtà la complessità del vostro operare quotidiano. Per quanto riguarda le casalinghe, naturalmente vedo che c'è una radicale reticenza nel parlare dal punto di vista delle casalinghe. Non chiamano casalinghe. Acquisisco un punto di osservazione molto interessante rispetto a questo tipo di fascia oraria. Chiamano stranieri, chiamano esperti in droni e chiamano inventori, ma le casalinghe in questo momento probabilmente stanno proprio facendo le casalinghe, quindi è nella lista delle professioni a cui ipoteticamente può essere attribuita una retribuzione, non c'è quella di ascoltatrici di radio. Ma sembra possibile questo? 800240024. Visto che sono una donna ex in carriera che ha rivisto le sue posizioni sull'emancipazione femminile, vorrei tanto dire che spesso mi piacerebbe essere una casalinga full time anziché una lavoratrice a tempo pieno e casalinga part time gioco forza. Le casalinghe sono le donne che fanno le casalinghe il sabato e la domenica, quelle di tutti i giorni non esistono più perché tutte le donne ormai lavorano. Sono una casalinga di Perugia, fiera di esserlo, felice perché? Perché rendo felici i miei cari. Io sono bresciana e faccio la psicologa, ma mi sento molto casalinga. Essere casalinga vuol dire, secondo me, essere in contatto con la persona, essere in contatto con l'esperienza che si fa esserci in questo mondo in cui vale solo il fare. Le nostre casalinghe hanno una visione molto mistica, molto idealista del loro lavoro, angeli del focolare, anime guida, punto di riferimento emotivo della loro famiglia, ma anche questo probabilmente ha un potere, anche questo ha un valore, anche questo comunque andrebbe retribuito. Quanti santoni, quanti maestri di vita comunque hanno fortune. Vediamo se comincia a arrivare i consigli pratici. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno. Cosa aggiungerebbe alla lista? Io dunque mi arrangio a fare un po' di tutto, ho aggiunto il cucito perché è una cosa penso che in casa sia molto importante. Ah beh, quanto costa fare orlo rapido, andare in quei negozi che in 5 minuti ti attaccano i bottoni, ti fanno l'orlo, ti aggiustano le lampo sgarrate? Esatto. Quanto costa ad esempio? Abbastanza, perché non so, loro fanno velocemente. 20 euro, 15 euro secondo me per un orlo li vogliono, minimo. Di una gonna, no, beh, dei pantaloni, magari dei jeans prendono 6 o 7 euro, ho visto qualcosa del genere. Però io mi arrangio a fare di tutto, poi oltre a quello se c'è da verniciare qualche cosa lo faccio, cioè, mi piace molto ecco, anche operazioni diciamo di manutenzione della casa, avevo dimenticato sì, questo. Anche. Certo, siccome io ho gli infissi di legno, un anno sì, un anno no, specialmente la parte inferiore, la gratto un pochino e poi metto il fossato. Quindi anche un lavoro di falegnameria va aggiunto. Benissimo, ha aggiunto Luisa, falegname e diciamo esperta in cucito, taglio e cucito, rammendatrice, qualcosa che non è stato contato, ma siccome è un servizio che viene offerto a pagamento, se lo fa la casalinga è un risparmio. Suo marito cosa fa in casa, Luisa? Beh, adesso siamo pensionati tutti e due, ma comunque lui non fa niente. Vabbè, può andare a vedere i cantieri, queste cose qui, fare delle passeggiate. Esatto. Va bene, fa l'umarello. Corrado. Ciao Gianluca, buongiorno a tutti. Io sono casalingo forzato, nel senso che sono disoccupato. Comunque non dobbiamo fare discriminazioni, chiaramente vale sia per l'uomo che per la donna. Okay. Spegni la radio però. Io sono lontanissimo dalla radio. Ah, però c'è un eco. Sei un fantasma. Velocemente, io aggiungerei alla lista una voce tipo expense manager piuttosto che saving manager, perché avendo tempo, mi rendo conto adesso che avendo tempo di poter fare la spesa cum grano salis, andando nei negozi giusti, avendo anche tempo nello stesso supermercato di andarmi a guardare le offerte e mica le offerte, risparmio una valanga di quattrini. Quindi un consigliere per gli acquisti. Consigliere per i miei propri acquisti. Interessante, un signore oggi si è inventato, leggo sul giornale, il mestiere di codaiolo, cioè lui si fa affittare a 10 euro all'ora e fa la coda al posto degli altri, ma non ha nulla a che fare, ma anche la casalinga fa la coda quando va a pagare le bollette perché ancora non è esperta nei trattamenti online del proprio conto corrente. Lia? Sì, buongiorno. Buongiorno. Cosa manca? Cosa manca alla lista? È la figura della caregiver per quanto riguarda le figlie in maggior parte. C'è molta polemica su questo, molti richiedono uno stipendio apposta di chi si occupa appunto di figli, soprattutto di figli con problemi in particolare. Ma soprattutto contempli il fatto che se le figlie femmine hanno dei problemi di salute non hanno neanche la priorità di potersi curare, perché sono perlomeno dato il come dire dovere etico morale se una figlia ha una coscienza purtroppo debbono anche posticipare le loro cure. Quindi lei deve fare la badante, la vecchia tradizione per cui una delle figlie almeno deve restare zitella per occuparsi dei vecchi nella loro putrescenza, e quindi aggiungere anche questo, la badante. Ci fermiamo un istante per le informazioni del traffico. Melog, cronache meridiane. .800 24 0024. 10 sono le attività rilevate da un sito americano che meritano la retribuzione secondo un algoritmo di 7.000 euro al mese. Le ripeto: cuoca, autista, insegnante, psicologa, contabile, manager, addetta al pulizia, operaia, lavandaia, babysitter. Ne abbiamo già trovate altre con le nostre ascoltatrici: badante, ricamatrice, falegname. Vediamo se riusciamo ad andare avanti. Patrizia. Sì, buongiorno. Cosa io manca? Vorrei aggiungere un'attività, oltre a tutte quelle dette che condivido pienamente, la tappabuchi di famiglia. Cioè, siccome noi casalinghe siamo quelle che, tra virgolette, non lavorano, quando ci fanno la domanda lavori, io sono costretta a dire no, ma lavoro moltissimo, perché in realtà non sono stipendiata. Vada al pratico, vada al pratico, cosa manca? Manca il tappabuchi, perché le cognate che lavorano, tutti quelli che appunto in famiglia o gli amici, puoi andare a prendermi il bambino perché La factotum familiare, una persona sì, sempre a disposizione. Tappabuchi. Il tappabuchi, quanto merita il tappabuchi in questa in più, diciamo, rispetto ad altri 200 euro al mese? Non saprei perché è saltuario, ma molto importante. Di media. Poi un'altra cosa, l'archivista di famiglia, perché bisogna tenere in ordine le carte delle banche, tutte quelle cose, le fotografie, gli archivi fotografici, chi li fa? L'archivista, la memoria storica della famiglia, mantiene lo spirito della stirpe. Laura, buongiorno. Cosa abbiamo Ciao, dimenticato in questa buongiorno. Lista? Beh, mi riaggancio esattamente a quello che diceva la signora precedente, io direi segretaria comunque. Perché amministrativa, in generale un lavoro amministrativo. Sì, proprio purtroppo in funzione proprio del tempo, che tu hai tempo, ti dicono, quindi vai tu. Vai in banca, lo so quindi, bene. Sì, recupero le multe soprattutto. Pagare le multe, le bollette, ecco, andare a litigare per la tassa della spazzatura esagerata. Esattamente, esattamente. esattamente, quindi questo è veramente un'attività... Gestire i possibili aiuti in famiglia, le tasse scolastiche, le gite scolastiche... Certo, sì, tutto quanto riguarda pagamenti... Raccogliere i soldi per il regalo delle maestre e delle professoresse... Sì, beh, questo, questo si dovrebbe gestire, ma lì bisogna imparare a gestirlo diversamente. Comunque sì, c'è anche quello. C'è anche quello, la rappresentanza scolastica, senz'altro. Ma per quanto riguarda anche il discorso condominio, attività, relazioni con... Quindi i ha un ruolo vicini, anche di segreteria amministrativa, io importante. Direi segreteria amministrativa. Grazie, Giancarla. Pronto? Ecco, cosa manca alla lista? Facciamo esempi pratici, perché il tempo è quello che... Lavandaia, stiratrice, sarta, magliaia, infermiera, economa. Infermiera non era stato messo, è vero. L'armadietto dei medicinali solo la donna sa. Per fare le iniezioni ai bambini, al marito. Metterle su posto, queste cose qua, chi è capace? Figuriamoci. Contabile iniezioni. Anche. Contabile. Poi? Contabile, economa. Magliaia e sarta, per necessità. Io adesso sono anziana, ma... Mi riferisco a quando avevo i bambini piccoli, no? Oggi si fa un po' meno, però, perché oggi costa meno andare in una bancarella a comprare una cosa nuova che aggiustarla, però... Mica vero, perché io con tutta la roba vecchia del parentato facevo i vestiti per i bambini. Ma ai tempi della guerra, non più oggi. No, non esageriamo, ai tempi della guerra ero una bambina io. No, vabbè, per modo di dire, ma chi è che aggiusta più i vestiti? Cioè io non vedo più un uovo di legno per aggiustare i pedalini da almeno 30 anni. Guardi, lo devo fare proprio oggi quel lavoro. Ma conviene aggiustare un calzino quando si trovano, certo che conviene, a 5 euro il sacco? Sì, ma certo che conviene. Ma poi il calzino col rammendo, chi avrebbe mai il coraggio di ostentare in prossimità di intima d'azione? Bene, se un rammendo fatto bene, intanto sta dentro la scarpa, non si vede. Ma ogni tanto uno si può anche levare le scarpe, di a modo che un uomo ogni tanto le scarpe se le toglie. Vabbè, insomma, non va in giro scalzo. E cosa rammendo? Oltre i pedalini cosa? Ma tutto può capitare di rammendare qualsiasi indumento. Va bene, ancora rammendano. Quindi, visto che esistono, ripeto, service specializzati e ben pagati per fare questi lavori, lei lo fa in casa. Ombretta, cos'altro fa? Eccomi, io faccio la parrucchiera per tutta la mia famiglia. Cioè, anche a suo marito taglia i capelli? Anche a mio marito, certamente. Anche la depilazione? No, la depilazione la faccio solo alle ragazze. A lei depila le figlie? Con la ceretta? Certo, oggi... È anche la tricoscultura intima, tutto fa le sue figlie. Guardi, no, questo non lo so, non so cosa sia. Quella quando uno deve andare a mare, che deve mettersi un costume un po' sgambato... No, deve... le ragazze sono molto giovani, niente costumi. Sono piccoline. Niente, le controllo. Però aspetti, controllo morale delle figlie, anche questo è il lavoro. No, è meraviglioso, questo è una cosa meravigliosa, controllo morale delle figlie, del marito... sostegno per tutti i loro impegni. Senta, lo dico a lei, Ombretta, mi sembra una donna pacata e saggia. Come mai nessuno ha ancora telefonato ha messo anche il dovere coniugale come attività che andrebbe retribuita quando diventa un onere? Perché accade. In questo non le posso rispondere perché per me è un piacere. No, lo so, ma può succedere per in qualche caso. Comunque. Guardi, io invece le dico una cosa... Però è un piacere, però scusi, ma siccome molti uomini pagano comunque per questo piacere, anche questo secondo me andrebbe messo a tariffa. Può essere qualcosa di divertente e di erotico, sicuramente. Diciamo molto saggio, Ombretta, molto saggio. Sapevo di aver avuto una risposta intelligente. Gabriella. Sì, sono io, ciao, sono Gabriella. Aggiunga elementi. Aggiungo una cosa che non mi ritrovo come casalinga, sicuramente non sono una brava cuoca, cosa che mi rimproverano, e non amo cucire o rammendare i calzini. Quindi bisogna togliere diciamo un 15% dalla tariffa, perché è importante. Sì, ecco. Cosa è brava invece? Sono bravissima ad amministrare le finanze di casa. Mio figlio rimane stupito e dice: ma tu dovresti essere una commercialista perché comunque tengo sotto controllo il conto corrente. Oggi una casalinga si deve... Suggerisce anche investimenti, diciamo, oggi questi soldini li mettiamo qua. Certo, questo in posta, piuttosto è un lavoro. Anche in banca, controllo delle carte di credito. Oggi una casalinga casalinga si deve modernizzare con la tecnologia, quindi controllo delle banche, i banking, lei le controlla tutto da casa, banking, perfetto. Bonifici da banco con l'home banking, anche le informazioni con le scuole. Una volta c'erano i fogli e si portavano i fogli a casa da far firmare a mamma e papà, adesso c'è la posta elettronica, il contatto con i genitori con email, WhatsApp e quant'altro. Quindi anche una community manager, diciamo, di quello che è la gestione dei rapporti online della famiglia. Bene, Chiara. Sì, buongiorno. Aggiunga. Giardiniera, non tutte abitano in condominio, magari 10 metri quadri di giardino una ce l'ha, e quindi anche magari hanno anche gli animali, hanno anche un cane. Le piante, gatto, dei fiori comunque sia, le concima, le sì, anche, esatto, anche se ha due piccoli gerani asfittici nel balcone, se ne occupa una donna. Esatto, e poi un'altra cosa, prima la signora ha detto che la figlia zitella per seguire i genitori, ma tanti in famiglia hanno o i suoceri genitori anziani da accudire. Quindi diciamo... pannoleggiante, come si dice, sì, cambiatrice di pannoloni ai suoceri, ecco. Esatto, sì. Addetta alla nettezza fisica dei suoceri, a me non mi sembra, mi sembra anche importante. Giardiniera, ancora vedo, rifaccio la domanda, lei non trova che anche l'aspetto legato al dovere coniugale possa in parte essere retribuito? Oddio, è sempre comunque un piacere. Beh, attestiamo tutto un piacere. Guarda, andate contro ogni statistica. Tutte quelle che ci ascoltano non vedono l'ora del marito che gli salti addosso. Vabbè, siamo contenti. Grazie Fabrizio Intonti e Valerio Rocchetta. Abbiamo aggiunto voci fondamentali alla lista del sito americano.